Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Patrocinio negato al match Italia-Israele. La FIGC regionale un neo per il futuro delle partite degli azzurri da noi. Imbrattato al monumento della strage di Peteano, il sindaco, qui lo Stato non è mai venuto. Invito Mattarella. Troppo caldo per lavorare nei cantieri sotto il sole. I sindacati in allarme chiedono di rispettare le norme contrattuali. Una vacanza per chi non vive da più di 2 anni in mezzo alla guerra e la pausa di normalità di 13 bambini ucraini. Sono le 12:30:45. Buongiorno da Andrea Saule e Rita Micoli. In apertura di questa edizione del giornale radio, la notizia di una scossa di terremoto che si è verificata pochissimi minuti fa alle 12:21, 6 chilometri a nord-est di Lusevera, l'epicentro. La magnitudo della scossa di terremoto è di circa 3 gradi Richter, a quanto dice la segnalazione automatica. La scossa è stata avvertita anche a Udine. E prima di parlare del mancato patrocinio del comune di Udine al match Italia-Israele, che continua a fare discutere, parliamo dell'ennesimo sfregio al monumento che ricorda l'attentato di Peteano, in cui il 31 maggio del 1972 il brigadiere Antonio Ferraro e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Don Giovanni morirono nell'esplosione di una vettura fatta saltare dopo che una telefonata anonima l'aveva segnalata come abbandonata e crivellata di colpi. La chiamata si era rivelata una trappola e l'attentato ricondotto agli ambienti della destra estrema. L'ultimo episodio di vandalismo è successo in questi giorni: il lancio di un vaso di vetro pieno di vernice marrone contro il monumento di pietra, ma è solo l'ultimo. Il sindaco di Sagrado, Marco Vittori, che lo ha reso noto oggi, riferisce di abbandoni di sacchi neri di rifiuti anche di materiale di cantieri edili, che si sono ripetuti a partire da aprile e che sono stati sempre denunciati. La bonifica dell'area è stata pagata oltre che dal municipio anche dal privato, su cui insiste il monumento, restaurato dal comune soltanto 2 anni fa. Ora, dice il primo cittadino Vittori, bisognerà spendere ancora per ripulire la pietra ed evitare che assorba tutta la vernice. Anche l'associazione dei carabinieri si sono rese disponibili a una raccolta fondi per contribuire alle spese. Amaro in bocca e incapacità di comprendere questi atti, dice Vittori. È vero che è un ricordo poco comodo quello della strage di Peteano, ma le vittime restano vittime. Non c'è mai stato un vero riconoscimento istituzionale di quanto successo, nessun esponente dello Stato è mai venuto qui, aggiunge. Ma adesso basta, conclude Vittori, scriverò al Quirinale e inviterò il Presidente della Repubblica Mattarella a venire a Peteano. Ancora cronaca: un incendio divampato nella mattinata di oggi vicino al monte Trösteli nel territorio comunale di Costagnevica na Krasu, sul Carso in Slovenia. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma il fumo è ben visibile da diversi chilometri di distanza fino in città Gorizia e vicino a Trieste. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di tutte le unità nell'arco di 30 chilometri dall'area, e ci sono anche 2 Canadair sloveni che sono decollati dall'aeroporto di Lubiana. Proprio ieri è stato dichiarato dal governo sloveno l'elevato rischio di incendio in ambiente naturale nell'area dei comuni del litorale. Esattamente 2 anni fa iniziavano i roghi che hanno sconvolto per settimane il Carso a cavallo del confine tra Italia e Slovenia. L'incendio in corso sarebbe divampato intorno alle 10 a una ventina di chilometri dal confine. Lavorare sotto il sole che batte con temperature oltre i 35 gradi, i contratti non lo consentono, ma poche ditte li rispettano, dicono i sindacati. Sentiamo. Ancora sul tetto alle 2 del pomeriggio, con temperature elevatissime e senza alcuna protezione, la fotodenuncia scattata martedì in un grande cantiere a Trieste dalla sindacalista Elisabetta Faidutti della filea CGIL non lascia spazio a dubbi sulla situazione difficile che i sindacati stanno rilevando in questi giorni roventi nel loro giro di sorveglianza e monitoraggio tra i cantieri aperti tra Trieste e Gorizia. Qui non si ferma nessuno, si continua a lavorare anche nelle ore più calde, nonostante sopra i 35 gradi la normativa lo vieti, denuncia anche Ranko Simidioschi, responsabile territoriale della filca CISL di Trieste Gorizia. Lui ci fa vedere foto e video di oggi che mostrano lavoratori ancora sui tetti o ad asfaltare strade alle 11 del mattino con 34 gradi. Inutile che lo scriviamo nei contratti se poi nessuno lo rispetta quando casca il morto. È sempre troppo tardi, aggiunge Simidioschi. Ai responsabili dei cantieri sta chiedendo da giorni di fermarsi. A chiederlo sono anche i lavoratori che a decine stanno scrivendo ai due sindacalisti di intervenire perché non ce la stanno facendo più. È un obbligo contrattuale ed è una questione di sicurezza perché chi ad esempio lavora sul tetto in caso di stress termico o ondate di calore mette a rischio la propria vita, sottolinea Faidutti, che fa sapere di non aver ricevuto per ora alcuna comunicazione di fermo cantiere dalle imprese edili del territorio giulianesontino, né richieste di cassa integrazione per il caldo. Chi non regge e va a casa riceve sanzioni disciplinari, segnala ancora Faidutti, che con Simidioschi lamenta anche l'assenza di controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro e delle aziende sanitarie preposti. Tra i sindacati sale intanto la preoccupazione. Proprio in queste ore è atteso un comunicato congiunto delle segreterie regionali di categoria per richiamare le associazioni datoriali e le imprese al rispetto delle regole. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa variabile in montagna. Alle 11 c'erano 24 gradi a Trieste, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi. A Udine e a Pordenone 31 gradi, 33 a Gorizia. A Tarvisio 22 gradi, a Tolmezzo 28, a Forni di Sopra 25 gradi, sul Piancavallo 22, a Sappada 20. Sul Monte Zoncolan 16 gradi, sul Lussari 14. A Grado e Lignano 32 gradi, temperatura del mare nelle due località 28 gradi. E ora le previsioni dell'ARPA. Nelle prossime ore cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio, qualche temporale sui monti, specie sui settori più interni verso il Cadore e il Comelico. Sulla costa e sulle zone orientali, venti a regime di brezza, probabilmente di nuovo borino in serata. Continuerà a fare caldo, ma rimarrà relativamente secco domani al mattino. Cielo in genere poco nuvoloso dal pomeriggio, probabili temporali sulla zona montana che in serata e nella notte si estenderanno a tutta la regione. Qualche temporale potrebbe essere anche forte. Al mattino ancora borino sulla costa, poi brezza in serata su pianura e costa. Soffierà probabilmente vento sostenuto da nord o nord-est e continuerà ad essere caldo. E ora la notizia con cui abbiamo aperto il nostro radiogiornale continua a far discutere: il mancato patrocinio del Comune di Udine al match Italia-Israele che si giocherà in autunno allo Stadio Friuli, le ragioni e le critiche di questa decisione nel servizio. Non si placano le polemiche sulla scelta da parte del Comune di Udine in merito al patrocinio della partita di calcio Italia-Israele in programma allo Stadio Friuli il 14 ottobre nell'ambito della National League. La richiesta inviata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina è stata presa dalla Giunta ritenendo che la scelta di patrocinare la partita sarebbe stata divisiva, essendo Israele uno stato in guerra. Il sindaco De Toni aggiunge che per regolamento il patrocinio si concede a iniziative che non hanno scopo di lucro e sono previste deroghe solo in caso di eventi benefici, cosa che la partita non è, e nel caso di eventi che portino particolare prestigio all'amministrazione. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine. È stata molto sofferta perché c'erano ragioni da una parte e dall'altra. Noi volevamo appunto non dare il patrocinio per non prendere la parte di Israele. E speriamo che questo sia stato capito. Noi non volevamo prendere nessuna parte, ma astenerci sperando nella pace. Sulle stesse posizioni del sindaco, il capogruppo del PD Jacopo Cainero. Un errore, secondo l'ex sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini, perché sport e politica dovrebbero rimanere distinti, anche perché la nazionale israeliana rappresenta tutti gli israeliani. Pietro Fontanini, già sindaco di Udine. Ricordo al sindaco di Udine che lo Stadio Friuli rappresenta un territorio che va oltre la città e quindi bisognerebbe più essere rispettosi di quelle che sono le sensibilità di una popolazione, quella friulana, che ha sempre amato la convivenza e soprattutto nello sport non ha mai portato la politica, non ha mai portato le divisioni. Di un fiume in ciel sereno parla il delegato della FIGC del Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani. La politica e lo sport sono cose differenti. I valori che le nazionali incarnano sono quelli di pace e fratellanza. Certo, il mancato patrocinio da parte del comune di Udine è un neo per il futuro. Vedremo. Avevamo lavorato tanto per dare al Friuli Venezia Giulia una settimana di azzurro con la partita dell'Under 21 a Trieste. Questo incidente di percorso non ci voleva. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 4 ore di sciopero anche in regione per il trasporto pubblico locale. Sentiamo come sta andando. A decine i mezzi fermi al deposito Broletto di Trieste Trasporti, molti meno i bus che vediamo in circolazione sulle strade. A Trieste ha aderito il 53% del personale allo sciopero nazionale di 4 ore indetto dalla maggioranza delle sigle sindacali del trasporto pubblico locale. A Trieste la fascia interessata, la protesta è stata quella del mattino dalle 9 alle 13, a Pordenone si concluderà alle ore 15 per il servizio urbano, mentre per quello extraurbano si è concluso alle 12 nell'area udinese, a Gorizia in tutto l'Isontino, braccia incrociate dalle 17.15 alle 21.15. La motivazione dello sciopero è il mancato rinnovo del contratto autoferro tranvieri e internavigator, la cui trattativa, leggiamo nella nota della CGIL, è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali. Del resto le paghe, ci spiegano i lavoratori, sono erose dall'inflazione. Si inizia con 1.100 euro al mese che, grazie poi agli accordi locali di secondo livello, si arriva ai 1.300. Tant'è che gli autisti sono merce rara. Se Friuli Venezia Giulia è stata una delle prime regioni a sostenere il costo delle patenti per i neoassunti che si impegnano a prendere servizio sul territorio, beh, non è così ovunque. Lo stesso vale per il tema della sicurezza. Sempre più frequenti le aggressioni al personale in servizio. In Friuli Venezia Giulia si è corso ai ripari da tempo. Moltissimi mezzi sono infatti già equipaggiati con telecamere a bordo, pulsante con chiamata d'emergenza alle forze dell'ordine e vetro alto della cabina. Delle guardie giurate hanno iniziato inoltre a presidiare alcune tratte sia a Pordenone che a Udine. Si inizierà a breve lo stesso progetto anche a Trieste. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 30 anni di Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia, riferimento dei lavoratori frontalieri, proposto questa mattina a Trieste un accordo bilaterale su sicurezza sociale e mercato del lavoro. Per il suo trentennale, il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia leva un accurato appello ai due governi, si giunga all'accordo bilaterale per i lavoratori transfrontalieri. Una mancanza che crea forti disagi ai migliaia che risiedono in uno Stato e lavorano in un altro, definiti da molti pionieri della mobilità europea. La proposta dei componenti del CSI, CGIL, CISL, UIL e i due sindacati sloveni maggiori, il ZSSS e il KS90, mira ad eliminare discriminazioni e a favorire l'emersione del lavoro nero, puntando sulla regolamentazione. Un'unica identità fiscale, dunque, evitare la doppia imposizione sul reddito da lavoro, applicazione dei medesimi vantaggi sociali ai residenti nei propri territori nazionali che non svolgono il lavoro oltre confine. Tra questi l'indennità di disoccupazione, l'applicazione della legge 104. Ci sono già normative europee che regolano il fenomeno. L'Italia ha già stipulato accordi bilaterali con altri paesi, anche con la Svizzera. Manca con la Slovenia e potenzialmente con la Croazia. Alla base il mancato riconoscimento della figura del lavoratore transfrontaliero. Per il CSI, Friuli Venezia Giulia Slovenia, è questa ancora la battaglia più grande, lo ribattisce anche il suo presidente, Roberto Treu, che auspica un cambio di rotta all'insegna delle sinergie di un'Unione Europea più sociale. È intervenuta anche Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, che si farà carico nel sottoporre la proposta del CSI a Roma con l'appoggio della regione. All'incontro è emersa anche la necessità di istituire una GECT istriana che faciliti gli innumerevoli aspetti del lavoro, proposta appoggiata da Treu e da Maurizio Tremul, presidente dell'Unione Italiana. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 20 i posti vacanti tra i dirigenti scolastici del Friuli Venezia Giulia in vista del prossimo anno scolastico. A denunciarlo Massimo Gargiulo, segretario regionale della FLCCGL, che rimarca l'assenza di miglioramenti rispetto alla situazione dello scorso anno scolastico, sebbene il numero di istituti sia calato da 167 a 157 per effetto del piano di dimensionamento scolastico, che riporta la situazione allo stesso identico deficit iniziale del 2023. Per la CGL il dimensionamento scolastico non garantisce alcuna stabilità e origina istituti sovradimensionati, difficili da gestire e con ricadute negative anche sulla progettualità didattica. Gargiulo è critico anche sui nuovi criteri che regolano la mobilità dei dirigenti. I nuovi mega istituti, spiega, non sono attrattivi e la direzione regionale, per metterli in sicurezza, ha praticato, si legge la nota, una compressione del diritto alla mobilità dei dirigenti scolastici prevista dal contratto nazionale di lavoro. E ancora una notizia, sono ancora fuori uso le linee telefoniche dell'ospedale di Monfalcone, all'origine un guasto tecnico su cui si sta lavorando da giorni per il ripristino definitivo. In caso di necessità, l'azienda sanitaria invita a contattare l'ospedale di Gorizia allo 0481 5921. Iniziato lunedì un viaggio di 10 giorni offerto a 13 bambini ucraini della regione di Kharkiv da mesi che subiscono l'offensiva russa. Una parentesi di normalità per chi da oltre 2 anni è costretto a convivere con la guerra e le sue atrocità. 13 ragazze e ragazzi provenienti dalla regione di Kharkiv, accompagnati da 4 adulte, 3 mamme e una referente di questo gruppo, una referente dei volontari che da Trieste, da praticamente 2 anni e mezzo, continuano mensilmente senza sosta a portare gli aiuti che servono all'Ucraina. Ad organizzare questo progetto, ad organizzare questa gita per questi ragazzi, uno di loro è Sergio Vianello, che abbiamo qui con noi mentre sentiamo sullo sfondo, forse riuscite a percepire il vociare dei ragazzi che si apprestano a entrare qui nella riserva marina, nell'acqua della riserva marina di Miramare, che è proprio una delle attività che avete preparato per loro in questi 10 giorni di permanenza a Trieste. Sì, esatto, abbiamo programmato diverse attività. Loro sono molto interessati ad andare al mare, soprattutto sono molto eccitati, ce l'hanno detto più volte. Ieri eravamo nella Grotta Gigante, era tutto un fantastico, quindi si stanno divertendo e noi siamo felici per vedere nei loro occhi la loro gioia. Vengono da una delle zone in cui è più difficile essere oggi in Ucraina, regione di Kharkiv, alcuni loro sono stati evacuati. Sì, una regione difficilissima dove oramai sentono continuamente i missili. Ci raccontavano le mamme che quando c'è un temporale loro hanno paura per i suoni e i fulmini che cadono. Una zona in cui c'è stata un'offensiva russa dalla scorsa primavera, un'offensiva che il presidente Zelensky ha dichiarato terminata e rintuzzata proprio nei giorni scorsi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora lo sport, cominciamo dal calcio. Seconda uscita in amichevole, seconda vittoria per l'Udinese di Runjanić, battuti 4-1 i croati dell'Istra. Positiva prova dell'Udinese contro un'avversaria di buon livello sul campo di Codroipo. Poi i bianconeri battono per 4-1 i croati dell'Istra di Pola, formazione di Serie A che comincia il suo campionato fra una ventina di giorni. Uomini di Runjanić subito pericolosi dall'inizio e in gol dopo una ventina di minuti. Toven scende sulla destra e serve Brenner a pochi passi dalla porta. Il brasiliano non sbaglia. Toven continua a fare paura agli avversari, l'Udinese domina ma sono i croati a trovare la via del pareggio. Una sbavatura difensiva consente a Fago di battere Okoye con un bel diagonale. Questione di minuti, l'Udinese torna in vantaggio. Combinazione per vie centrali Brenner-Toven e Lucas si invola verso la porta battendo Majkic con un tocco sotto dal limite dell'area. Il gol del 3-1 arriva allo scadere del primo tempo. Toven suggella una grande prestazione ribadendo in rete la respinta di Majkic su un destro di Pajero. L'Udinese chiude il tabellino al 10° della ripresa con un'altra rete di Lucca. Oggi la squadra è partita per la Carinzia e rimarrà in ritiro a Bad Kleinkirchheim fino al 31 di luglio. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Il softball, Italia beffata all'ultimo respiro a Castions di Strada, al Super Round, vai il Canada. La beffa arriva nel finale, il 7° inning rimane indigesto per l'Italia del softball, sorpassata dal Canada a un passo dalla qualificazione per il Super Round a 4 della Coppa del Mondo. La partita è molto equilibrata, come dimostra l'andamento del punteggio. Il primo punto è per l'Italia con Filler, propiziato da un doppio di Cecchetti. Le canadesi ribaltano subito, ma nel secondo inning la squadra di Pizzolini torna avanti, grazie anche a un doppio della ronchese Gasparotto. Per la lanciatrice Nicolini è un buon momento, 6 eliminazioni, ma nel quarto inning il Canada torna in parità. Le azzurre sprecano una buona chance nella quinta ripresa, Piancastelli eliminata tra terza e casabase, mentre sul monte di lancio subentra la catena che riesce a contenere il minaccioso attacco delle nordamericane. Nel sesto inning l'Italia torna avanti con Shelton, errore della difesa canadese. Nella ripresa conclusiva la lanciatrice Groenewegen stoppa le mazze dell'attacco azzurro, mentre la catena va in difficoltà, concedendo valide a tutte le avversarie. C'è prima il pareggio e poi il definitivo 5-4, complice l'errore di Piancastelli. Questa sera l'Italia torna sul diamante di Castions di strada contro il Porto Rico per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. La rassegna More Than Jazz, organizzata da Simularte, ospiterà Chiara Luppi, cantattrice padovana di origine italo-armena. Con lei 5 giovani talenti selezionati da prestigiose università musicali internazionali che hanno appena concluso con Luppi una residenza artistica in Friuli e che la accompagneranno dalle 21 nella cornice del Giardino del Torso a Udine. You'll see that it will feel... Altri appuntamenti con gli spettacoli: serata inaugurale del concorso internazionale di canto corale Seghizia alle 21 al Teatro Verdi di Gorizia, sul palco tra gli altri il coro giovanile regionale diretto da Fabiana Noro. Parteciperà al concorso anche il Kammerchor di Amburgo, che si esibisce questa sera invece alle 20.45 nel Santuario della Beata Vergine Marcelliana a Monfalcone. Per Carni Armonie a Paularo, nel 700esco Palazzo Valesio Calice, musica da film eseguita dall'ensemble Palm Court Quartet e proiezioni di pellicole del cinema internazionale alle 21. Folkest nella piazza 20 settembre di Travesio alle 20.45 con i ZF, una delle tappe della sezione Fra Monti e Acque dedicata alla destra Tagliamento. A Udine per la rassegna Istat, rassegna musicale plurilingue di Udine Estate, il Barschi Octetto, tetto virile di Luceve Rabardo al Parco Moretti alle 21, organizza l'Ufficio per la Lingua Friulana del Comune di Udine con l'associazione Ignò. E proseguono gli eventi estivi del Mulino Nicli di Rive d'Arcano alle 20.45 con Spirito, concerto frutto di una residenza artistica, intreccerà sonorità acustiche ed elettroniche. Ultimo appuntamento con Maravè Circus, lo spettacolo Scarpone della Pace di e con Claudia Contina Arlecchino chiude il festival al Castello di Colloredo alle 21.30. La Udine Gnoz di Chiavris al Parco Brun di Viale Vatt, spettacolo di marionette appeso a un filo alle 18. Quando le storie sono appese a un filo, il teatro di figure e l'arte di strada nel parco di Villa Serravallo a San Daniele del Friuli alle 18, a partire dalle 17, laboratorio di arti di strada. E il piccolo teatro Città di Sacile ospiterà il teatro Immagine di Salzano in Corte Ragazzoni alle 21.15 con la loro versione di La strana storia del Dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert Stevenson. Una crime story in 7 puntate dei veri e propri corti d'autore realizzata da giovani filmmaker intitolata Pordenone. La produzione è stata firmata dall'associazione Astro. La prima si terrà alle 21 nella sede della storica società operaia di Pordenone, location delle riprese. È nata dal soggetto di Jimmy Baratta, che neanche il regista. Gli abbiamo chiesto come è nato il soggetto di questo poliziesco che valorizza la città di Pordenone. L'idea è nata dal secondo film di Bisio, quello Benvenuti al Nord, quando a un certo punto uno di loro doveva essere trasferito a Pordenone ed è venuta fuori la frase Pordenone che brutta morte. Allora ci siamo resi conto che Pordenone non è conosciuta molto bene, tutti pensano che sia in montagna, che nevichi tutto il giorno. Quindi l'idea è venuta fuori per creare qualcosa che facesse conoscere Pordenone. E poi è venuta l'idea di questo escamotage drammaturgico che è un poliziesco che racconta della storia di questo ragazzo pordenonese che a 20 anni è andato via perché non vedeva prospettiva nella città, è andato a Roma, è diventato un poliziotto affermato, viene rimandato a Pordenone dopo 20 anni a risolvere un caso perché i pordenonesi chiedono i migliori. Chi vorrà potrà godersi lo spettacolo di stasera che però ha coinvolto tantissimi giovani. L'associazione Astro è un'associazione giovanile. Io ho 43 anni, sono il più vecchio, in realtà tutti gli altri sono sotto i 30 o per la maggior parte i ragazzi coinvolti, 22-23 anni, sono stati lo zoccolo duro della parte organizzativa. È un progetto che avrà un seguito? Questo progetto ovviamente è composto da 7 corti che vogliono raccontare un'unica storia di questo poliziesco. Ci sono delle aperture perché chi vedrà i 7 corti e vedrà che alla fine qualcuno scappa e l'idea è di fare un seguito, sì. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora alcuni appuntamenti, architettura alla stazione Rogers di Trieste alle 14.30, storia e progetto, si parlerà di confini come strumento di organizzazione formale dello spazio, alle 16.30 l'inaugurazione della mostra Architettura Italiana Contemporanea. A Udine, al Museo Friulano di Storia Naturale in via Sabbadini, obiettivi possibili, il museo incontra la sostenibilità con Pierpaolo Zanchetta del Servizio Biodiversità della Regione, incontro alle 18.30. A Sistiana, spazio culturale Borgo San Mauro per review della mostra dedicata a Rainer Maria Rilke alle sue elegie duinesi alle 19. Alle 17 visite guidate al Civico Museo della Civiltà Istriana, una alla rassegna permanente per una Pinacoteca Istriana Fiumana Dalmata, spunti con Marina Parladori e una alla mostra illustratori nella Venezia Giulia guidata dal curatore Del Bello. Il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo sarà alla libreria Rovat di Trieste alle 18 per presentare Soli nella tempesta, disciplina e armonia per affrontare le peggiori battaglie della vita. Lignano, Trame di sabbia dorata, l'ultimo libro di Enea Fabris, presentato alle 18.30 al Pala Pineta agli incontri con l'autore e con il vino. Più culo sentimento, la vera storia dei Frizzi Comini Tonazzi a Versa di Romance di Sonza alle 20.45. A Udine, a Palazzo Antonini Stringer, sede della Fondazione Friuli, alle 17, il libro Il Scalate di Penna e Graffite, le montagne disegnate da Gino Buscaini. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Federico Comare, Mauro Coloni, in redazione ha collaborato Edoardo Veglia, da Andrea Saulo e Rita Miccoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.